24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. E allora eccoci alle 6:32 minuti. Buongiorno, cari ascoltatori. Siamo qui in diretta fino alle 9. Siamo anche su Twitter, @24mattino, ci trovate così, oppure Alino Milan se volete diventare nostri amici, mio amico, miei amici nel caso di Alino Milan, ovviamente. Allora, che dire, siamo già pronti qui ad aprire il nostro bar a Radio 24. Oggi è venerdì, quindi poi lo teniamo chiuso due giorni, è un bar strano, il sabato e la domenica. Non rispondo a nessuna domanda, non ho intenzione di rilasciare nessun tipo di dichiarazione. Fine. Ma perché non rispondi? Un caffè si può avere. Il caffè volentieri a tutti quanti. Oh, il caffè volentieri a tutti quanti. E allora eccoci qua. Il caffè lo offriamo intanto a Mario Adinolfi, buongiorno. Buongiorno a voi. Deputato del Partito Democratico, che ci fa sveglio? Poi si dice i politici non lavorano, alle 6:30 sveglio. Anche alle 6, io sono abituato così. Anche alle 6 sveglio. E va bene, intanto Adinolfi, volevo chiedere una cosa. Adesso forse tra un po' suona il telefono invece. Dove c'era un altro avventore previsto, non ci sta. C'era Alessandro Sallusti, il direttore del giornale. Forse arriva un po' in ritardo Adinolfi. Comunque abbiamo il caffè freddo allora. Subito caffè freddo. Tanto Adinolfi, subito una bella provocazione. Allora, qua adesso non è che alle 6:30 del mattino dobbiamo spiegare tecnicamente cosa è successo alla BCE, ci viene il mal di testa altrimenti. Però la polemica che voglio fare è questa. Oggi se vede sul Sole 24 Ore, pagina 2, ci sono delle faccine di persone, questi che siedono nella board della BCE. Ne conosce qualcuno, sì, a parte Mario Draghi, ovviamente, forse i Weidmann, quello della Bundesbank. Per fortuna non si conoscono, poi questi sono tecnici di altissimo livello. E per fortuna questi politici non vengono votati, non hanno una, diciamo così, un profilo pubblico che deve essere noto, cioè dovrebbero stare lì a fare cose giuste, mediate da avere consenso o dissenso, cose buone e giuste. Ma questi decidono tutto, voi non contate più niente, politica non conta più nulla, decide tutto questo, il board della BCE. Bisogna ragionare, insomma, bisogna. Noi abbiamo avuto sempre una tradizione di Banca d'Italia, diciamo così, molto indipendente dal potere politico, e credo sia stato un bene. Sul piano europeo io non sono tra quelli che pensano che per esempio la cessione di sovranità dell'Italia sia un male. Insomma, se vogliamo fare l'Europa bisogna cedere sovranità. E io non credo che tutti i poteri debbano essere democratizzati. Esiste il potere della politica, che è figlio della democrazia, e poi esistono altri poteri con cui la politica interloquisce. Insomma, non credo, anche questa vulgata della politica non conta niente, non so, mi sembrano tanti luoghi comuni, francamente. Le decisioni vengono prese, mi sembra che peraltro vengano prese bene da Mario Draghi, quindi buon per noi non essere inchiodati magari a processi di consenso e dissenso che creerebbero magari del populismo persino delle banche centrali, cosa sarebbe pericolosissimo. Sì. Però il dato di fatto sarà che la politica non conta più niente, però il dato di fatto è questo, cioè anche l'acquisto dei bond, dice i bond verranno acquistati per salvare gli stati, ma gli stati verrà sospeso tutto se gli stati non faranno le riforme, non si comporteranno bene. Cioè praticamente siamo telecomandati. Ma meno male, quando eravamo telecomandati abbiamo fatto 2 milioni di miliardi di debiti. E allora non facciamo più le elezioni, sospendiamo i parlamenti, diamo tutto il potere alla BCE e basta. Facciamo le elezioni sapendo che ci sono persone che si candidano alle elezioni dicendo io all'Europa ci credo, per esempio, e persone che si candidano alle elezioni dicendo io dall'Europa voglio uscire o dall'euro voglio andar via. Cioè, esistono opzioni politiche diverse su questo punto e che vengono poi votate dai cittadini. È un equilibrio molto precario, devo dire la verità, c'è un'enorme difficoltà su questi equilibri, però io non trovo così ripugnante dover sottostare a logiche europee, perché sono convinto che questo tipo di mondo l'Italia da sola non ce la fa, e l'Italia da sola, diciamo, con la sua politica molto autonoma, diciamo così, fin troppo autonoma, ha fatto disastri, quindi ben venga una logica concertata. Ho capito, ma cioè, va bene, ma ben venga, abbiamo fatto disastri, ho capito, ma che dobbiamo fare allora? Che serve tutto questo Parlamento, il Parlamento, il Senato? Il Parlamento, per esempio, a fare cose serie. Io ho votato con molto piacere il Fiscal Compact. Il Fiscal Compact, per dirlo a quelli che sono appena svegli, insomma, che come me magari stanno un attimo traballando, è una cosa che ci costringe a fare 45 miliardi l'anno di risparmi per rientrare al debito pubblico. Ma meno male che siamo costretti a farlo, altrimenti che facevamo? Continuavamo a far alzare il debito pubblico di 100 miliardi all'anno. Noi abbiamo delle curve di crescita del debito prodotte da una politica di deficit spending che sono incredibili, enormi. Sì, sì. Allora io dico, meno male che c'è l'Europa, meno male che ci sono i tecnici per dirla chiaro, meno male che c'è Monti, meno male che c'è stato un momento in cui la politica ha dovuto ragionare su questo. Io sono stato orgoglioso di votare in due mesi 13 decreti del governo che tra un pochino hanno cambiato l'Italia. E francamente, tutto sommato, rispetto a quello che c'era prima, diciamo così, mi sembra che c'è stato un sussulto di serietà. Vabbè, meno male, insomma, qui dobbiamo... Sta di fatto che ci sono ste faccine, allora i nomi sono Eval Novotny dell'Austria, Ardo Hansson dell'Estonia, Klaas Knot dell'Irlanda, Erkki Liikanen, finlandese, persone serie, persone serie, sì, i tecnici. Le faccine rosse sono Nicole Minetti. Nicole Minetti, ma se ci offre il caffè a tutti, Nicole Minetti, di che ci dobbiamo, che ci dobbiamo lamentare? Almeno dice un caffè a tutti. E non... manco si dimette. Non risponde alle domande, ma adesso però sta storia, ma povera Nicole Minetti, difendo Nicole Minetti, ma adesso il problema in Italia sono le dimissioni di Nicole Minetti. Non è il problema d'Italia, sicuramente non è il problema d'Italia. C'è un po' di accanimento. C'è un po' di accanimento nei confronti. Cioè, voglio dire, adesso tutti un po' ad accanirsi, come se il problema fosse un po' di cose. Beneficiata anche, insomma. Gli ha detto bene, secondo me, nella somma costi-benefici non può lamentarsi. Diciamo. Secondo me il problema più che Nicole Minetti sarà Beppe Grillo, soprattutto per il Partito Democratico. Ha visto Piazza Pulita ieri? Come non l'ho vista, mamma mia. C'è stato questo audio, ma io non l'ho visto, ma è stato un audio rubato. Adesso lo facciamo sentire a questo consigliere. Questa cosa è da capire, guarda. Secondo me è un po' capire, un audio. Io vedendolo così, di primo acchito ho pensato che fosse rubato, poi me lo sono riascoltato un po' di volte e ho avuto l'impressione che in realtà ci fosse una sorta di consenso del consigliere Grillino. Allora, sentiamolo, perché il consigliere Favia, il consigliere è stato nostro ospite del Movimento 5 Stelle in Regione Emilia-Romagna, non si sa bene se è un audio, sicuramente era un audio, non era proprio un'intervista, no? Faccia a faccia, penso in un caffè, eccetera, c'è anche un rumore di sottofondo. Si lascia andare delle considerazioni sulla non democraticità all'interno del movimento, dicendo è un disastro, decide tutto questo guru Casaleggio che sta sopra Grillo, secondo Favia, decide bella il cattivo tempo, le politiche, cosa fare, le strategie di comunicazione. Sentite Favia cosa dice, come parla del Movimento 5 Stelle e cosa dice di Casaleggio. Casaleggio prende per il culo tutti, perché da noi la democrazia non esiste. Il problema è su. Quindi o si leveranno dai coglioni, oppure il movimento loro gli morirà, esploderà in mano. Tra gli eletti ci sono degli infiltrati di Casaleggio, al di là di quelli. Quindi noi dobbiamo stare molto attenti a quando parliamo, sai? Loro dicono, ma Casaleggio è spietato, è vindicativo, eh. Adesso vediamo chi va nel Parlamento. Perché io non ci credo alle votazioni online, lui manda chi vuole lui. Allora, qualcosa sai capire, è spietato, è vendicativo, non c'è democrazia, o se ne va o implode tutto. Sai come chiamo io... su Twitter Beppe Grillo, un po' l'ho rubata, Kim Jong Grill, siamo duri insomma su Grillo, vabbè, ma per fare un po' di ironia, dai. Morbidi sulla Minetti e duri su Grillo, ma i rappresentanti di Beppe Grillo che mi dicono sempre non parlate mai di Beppe, siamo la radio, io li invito, sono tra quelli che li invita di più, anche Favia, li faccio parlare anche del programma, però che succede, è davvero un movimento un po' tipo setta? No, questo non ci voglio credere, dai, Ridolfi. È un movimento tipo setta oggettivamente, perché abbiamo visto come è costruito, cioè un movimento in cui il depositario del simbolo è uno, ed è Grillo, e il depositario, diciamo così, della disciplina interna è Casaleggio, insomma, questo senza dubbio, non è che c'è una discussione da fare su questo, è così. Non c'è un grado di democrazia interna, nel senso che io ti consegno il simbolo se voglio, quindi sei membro del 5 Stelle e ti puoi presentare alle elezioni solo se decido io, cioè io Casaleggio. Questa cosa è sicuramente costruita in questa maniera. Il problema è sapere se è immaginabile un 5 Stelle costruito in altra maniera, cioè un movimento come quello così impetuosamente cresciuto è difficile da governare con meccanismi di sezioni, congressi interni, cioè, sarebbe sicuramente imploso, insomma, cioè, la deriva partitista, come viene chiamata, che ha portato poi all'espulsione di quel Tavolazzi, era una deriva che loro non potevano consentirsi, di fatto, insomma, tutti questi partiti populisti molto spesso sono partiti a guida ferrea. Ma io credo di poter dire una cosa: molti che si impegnano nel Movimento 5 Stelle, le persone, la base, diciamo, sono persone, secondo me, motivate da spirito nobile, uso questa parola di Nolfi, cioè da ideali in cui credono, da cose concrete che vogliono risolvere per le proprie città, sul tema dell'energia, sui temi delicati, quelli su cui si giocano, no, anche la partita futura dell'Italia. Io credo così, o no, Adino? Mi sbilancio, cioè, poi forse c'è qualcosa. Grillo Grillini, a me questa cosa non è mai riuscita semplice, perché davvero? Sono certo che quelle persone, brave persone, come tu indicavi, sicuramente. Ma c'è gente che vanno in meetup, non esisterebbero, no, se non ci fossero le spalle. Questo sì, non prenderebbero i voti, però è gente. Se è piena l'Italia di brave persone che hanno provato a fare politica con listarelle civiche, sono sparite un minuto dopo, insomma, cioè, non è che. La grande novità di tutto questo è Grillo, è inutile che ci stiamo a proviamo no, questo sì. Adinolfi, proviamo a sentire se Sallusti, magari lo svegli tu. Vodafone. No, ma che, niente, Vodafone. Ti ha tenuto un po' staccato il telefono. No, suona. No, suona, ha detto, perché poi diciamo la verità, tra te e Sallusti era successo anche qualcosa in TV. Abbiamo avuto uno scazzo un paio di anni fa, pesante in televisione, brutto, devo dire la verità, non lo ricordo mai con piacere, perché poi c'è stata a seguito anche un'aggressione, poi sono tutte cose. No, ecco, questo, ma Sallusti non risponde. Poi in realtà è una delle persone con cui mi piace confrontarmi, perché è di un... Ma certo, ma infatti lui ha detto, ma figurati, ma volentierissimo, che... Ma sì, ci mancherebbe. Tante volte siamo ritrovati, quindi non è mai stato un problema. Questo invece è il tu di Sallusti. Com'è finita con il sindaco, quello là di Civitavecchia, no? Che io faccio il deputato e lui avete fatto un passaggio di consegne, ma avete... No, c'è stato un giorno in cui lui è stato, diciamo così, costretto alle dimissioni, ha fatto un discorso in aula, poi sono stato proclamato io e sono arrivato. Ci siamo incrociati un paio di volte. Incrociati. Senti, però vabbè, non vi siete... Fatto proprio bellamente finta di non vederci. Proprio così? Sì. Cioè, ti ha lasciato lo scran? Sono stati 20 giorni un po' di alta tensione, insomma. Poi magari fra un mese ci facciamo una pizza insieme a Civitavecchia, ma in quel momento là c'è stata un po' di tensione. Poi ti vorrei chiedere un'altra cosa molto molto personale che succede. Non so se ne hai mai parlato, no? Questo momento di imbarazzo che c'è stato con Fini. Delle mutande. Che ti sono caduti i pantaloni, ma non ci credo. Sei rimasto in mutande davanti a casa il primo giorno, insomma. Ma che vuol dire? Presidente della Camera, vicepresidente della Camera e credo una dozzina di giornalisti. Quindi una cosa proprio. Cioè, davanti a Fini ti sono caduti i pantaloni. Ma com'è possibile questa cosa? Mi sono cadute le braghe, mi si è rotto un elastico. Io sono un po' grosso, chi mi conosce fisicamente lo sa, insomma. Mi si è rotto un elastico di tenuta di questi pantaloni extra larghi che devo mettere. È andato giù. Allora no, io a questo punto devo farti ascoltare una cosa, perché sta diventando un tormentone sulla rete. So che ieri Cruciani ci ha fatto mezza puntata, credo. Allora, il presidente della provincia di Napoli lo conosci, Luigi Cesaro? Credo. Certo. In che senso, certo? No, non lo conosci personalmente, lo conosci per sentito dire. Lo conosco di nome. Allora, arriva a Napoli World Urban Forum, io lo pronuncio così apposta, no? Perché sentite il presidente della provincia di Napoli. No, poi uno pensa che ci sono quelli della BCE che ci telecomandano e Adinolfi dice meno male. Forse se uno ascolta il presidente della provincia di Napoli nella sua performance alla conferenza stampa può dire: ma benedetta BCE, Sentiamo Cesaro che dice nel World, sentite come pronuncia il World Urban Forum. Chi più di noi aveva quindi le caratteristiche idonee per ospitare la sesta edizione del World Urban Forum. Ma non basta, nel nostro paese è in atto una trasformazione legislativa che a breve vedrà nascere 10 città metropolitane. La trasformazione legislativa, Mario, qua vabbè. Vieni al discorso mio, insomma, vedi, cioè, Santa BCE. Santa BCE. Con la classe Santa di gente italiana che ci troviamo, per carità. In un altro caso dice, sai come lo chiama l'amministratore delegato della Fiat, Marchionne, sai come lo chiama Cesaro? Melchior, la Fiat di Melchior. Capisci? Vabbè. Adesso diventa tutto più chiaro, perché diventa Mario Draghi, diventa tutto più chiaro. I suoi tecniconi della BCE. Senti un po', perché sui giornali non c'è più? Ah, intanto mi sono arrivati i giornali, allora ti leggo i titoli, qua è il nostro bar. La mossa di Draghi. Acquisti illimitati di bond, così apre il sole, Repubblica, svolta BCE, le borse volano, tutto così. Il piano vogliamo dire che lo spread è a 380, è un bel giorno per ma l'Italia. Tu ti rendi, questo, sì, ma tu ti rendi conto? Cioè questo, Draghi annuncia una cosa, spread giù. Allora aveva ragione Berlusconi a dire che aveva ragione. L'acquisto illimitato di bond è una decisione importantissima. Ma aveva ragione Berlusconi, allora non c'entrava nulla tutta questa storia, l'hanno inchiodato allo spread. La credibilità dell'Italia era legata all'autorevolezza del Presidente del Consiglio. Nel caso di Berlusconi non c'era più. È un fatto, se si presentava ai vertici europei era la barzelletta delle corna, delle cose, insomma, questo è un problema per il paese. Ormai l'Italia deve presentarsi in Europa con una classe dirigente autorevolissima per poter difendere dei disastri fatti in passato che sono sul nostro gruppone, non c'è niente da fare, questo è un elemento di cui dobbiamo prendere atto. Poi alle prossime elezioni i cittadini decideranno, volete di nuovo i populisti o volete quelli che insomma tutto sommato con la BCE sanno andare a parlare, sarà importante. Sai no? Che tanto volete mandare Cesaro a parlare con la BCE, che non sa neanche pronunciarlo. Facciamolo risentire Cesaro, perché voglio risentirlo, il World Urban Forum, come lo pronuncia il presidente della provincia di Napoli, voglio risentirlo. Chi più di noi aveva quindi le caratteristiche idonee per ospitare la sesta edizione del World Urban Forum. Ha rischiato di cadere, cioè non lo so che ha fatto. Rischiava di, vabbè, ma dai, adesso non si giudica un politico da queste cose. Ecco, me ne esco così, mi salvo in corner. No? Vabbè, adesso non si giudica. Si giudica. Sai che a proposito di parlare, Berlusconi è andato, ovviamente casualmente, poi dicono che non è il giornale delle procure, casualmente sul Fatto Quotidiano c'è tutto l'interrogatorio di Berlusconi con Ingroia, cioè in retroscena. Cosa ha detto Berlusconi a Ingroia? Sai che gli ha detto quando l'ha incontrato? Peccato. Va in Guatemala, meno male. Sì, va in Guatemala. No, buon lavoro per il Guatemala, esatto. Gliel'ha detto. Peccato che lei abbia solo un difetto, lei ti fa Inter e non Milan. E questo è stato l'esordio. Grande il Berlusconi. Ma voi interisti vi pentirete di averci portato via Cassano, che rompe lo spogliatoio. Gli ha detto anche così. E poi ha fatto una barzelletta, alla quale dice, su una barzelletta che non racconta il fatto, ma riguardava alcuni killer mafiosi che fanno stragi e i vani tentativi dei loro avvocati di giustificarli. Racconta il Fatto Quotidiano, nessuno dei PM ha sorriso neanche per mezzo secondo. Questo è Berlusconi, che poi ha detto anche, vabbè, la potevo raccontare meglio, comunque no, non abbiamo tempo, mi pare di capire, insomma. No, non è cosa. È sempre lui, non c'è niente da fare. Allora, Mario, no, io nel ringraziarti devo far ascoltare anche un'altra cosa per concludere il nostro tormentone. Un po', sai che De Mita la scorta? Ecco, De Mita, noi l'abbiamo chiamato, Cirico De Mita la scorta. Elisabetta Fusconi, della nostra redazione, l'ha chiamato, gli ha fatto delle domande. E si arrabbia, lo conosco il vostro tormentone. Lo so, ma lo vogliamo far sentire agli ascoltatori. Quando gli ha detto, ma insomma, ci spieghi perché ha la scorta? Perché ha la scorta, Ciriaco De Mita? Se me l'hanno data, vuol dire che una ragione c'è. Vorrei che si avesse nella memoria che io sono stato presidente del Consiglio. Ecco, queste sono state le spiegazioni. Ma poi quando gli ha detto, vabbè, ma venga a dircelo, perché ha la scorta di qui? De Mita, così. Parla come se fosse il

perché ha colpito molto molti italiani il fatto che la lettera, una lettera pubblicata dalla nipote del cardinale, che tra l'altro tra poco sentiremo negli stralci più importanti, nella quale la nipote del cardinale Martini, Giulia Facchini Martini, racconta la scelta ultima dell'ex arcivescovo di Milano di chiedere la sedazione quando ha capito, insomma, che la vita stava finendo. Una scelta che tra l'altro ha spinto il filosofo Paolo Flores d'Arcais ieri a proporre una vera e propria legge Martini, l'ha definita così. Intanto lo saluto, buongiorno, buongiorno professore, benvenuto. Buongiorno. Una legge Martini, cioè la necessità che questa esperienza del cardinale Martini possa ispirare i legislatori a fare una legge che dia la possibilità a tutte le persone, a tutti gli italiani, di poter fare la scelta che ha fatto il cardinale Martini. Su questo argomento, tra l'altro, proprio oggi scrive su Avvenire il giurista Francesco D'Agostino, che saluto. Buongiorno, professor D'Agostino. Buongiorno a lei. Eccoci qua. Dal titolo Quei diversi modi di fare bioetica, il suo editoriale che trovate a pagina 2 di Avvenire, dopo ne leggerò qualche stralcio perché è molto interessante. Sembra quasi anche una risposta in qualche modo a distanza a quello che propone Paolo Flores d'Arcais. Però vogliamo intanto sentire degli stralci, lo stralcio della lettera che riguarda appunto la vicenda degli ultimi momenti, gli ultimi attimi, gli ultimi mesi di vita del cardinale Martini, nelle parole della nipote Giulia Facchini Martini. Caro zio, zietto, come mi piaceva chiamarti negli ultimi anni, quando la malattia ha fugato il tuo naturale pudore verso la manifestazione dei sentimenti, questo è il mio ultimo intimo saluto. Lo sento, tu vorresti che parlassimo dell'agonia, della fatica di andare incontro alla morte, dell'importanza della buona morte. Ne avevamo parlato insieme a marzo e io, che mi occupo come avvocato anche della protezione dei soggetti deboli, ti avevo invitato a esprimere in modo chiaro ed esplicito i tuoi desideri sulle cure che avresti voluto ricevere. E così è stato. Con la consapevolezza condivisa che il momento si avvicinava, quando non ce l'hai fatta più hai chiesto di essere addormentato. Così una dottoressa, con due occhi chiari e limpidi, un'esperta di cure che accompagnano alla morte, ti ha sedato. Seppure fisicamente non cosciente, ma il tuo spirito l'ho percepito ben presente e ricettivo, l'agonia non è stata facile, né breve. Ciò nonostante è stato un tempo che io ho sentito necessario, per te e per noi che ti stavamo accanto, proprio come ineludibile il tempo del travaglio per una nuova vita. La chiave di volta, sia per te che per noi, è stato l'abbandono della pretesa di guarigione o di prosecuzione della vita nonostante tutto. Tu diresti la resa alla volontà di Dio. Grazie, zio, per averci permesso di essere con te nel momento finale. Una richiesta. Intercedi perché venga permesso a tutti coloro che lo desiderano di essere vicini ai loro cari nel momento del trapasso e di provare la dolce pienezza dell'accompagnamento. Allora, queste le parole che hanno suscitato il dibattito. Se volete metterci insieme, c'è anche se è una vicenda totalmente diversa, ma c'è anche un film che è uscito a Venezia, quello di Marco Bellocchio, che è ispirato almeno cronologicamente nel periodo in cui ci fu la vicenda di Eluana Englaro. Ieri sul Fatto Quotidiano lei, Paolo Flores d'Arcais, ha fatto questa proposta, una legge Martini, definita così, che stabilisca in modo inequivocabile il diritto di ogni malato di scegliere il momento in cui ricevere una sedazione definitiva che lo accompagni in perfetta e irreversibile incoscienza alla morte dell'organismo. Le faccio però questa richiesta, se vuole la prima domanda anche una provocazione. Non è che si parte da un punto di vista un po' distorto, nel senso che nessuno è per l'accanimento terapeutico, nessun medico è per l'accanimento terapeutico, nemmeno la Chiesa è per l'accanimento terapeutico. Guardi, qui di distorto non c'è proprio nulla. Io mi sono limitato a prendere atto del racconto semplice e toccante che ha fatto la nipote del cardinal Martini sul modo in cui il cardinal Martini ha voluto morire. Quando non ne ha potuto più, ha chiesto di essere sedato, cioè di essere messo in stato di incoscienza. Da quel momento in poi, quello che accadeva al suo corpo lui non lo sentiva più. Era per lui, dal punto di vista della vita cosciente, lì terminava. Ho semplicemente detto, questo che ha chiesto e ottenuto il cardinal Martini deve essere un diritto per ciascuno di noi, non può essere un privilegio solo per un cardinale o per persone potenti, eccetera. Il cardinal Martini credo che non abbia violato nessuna regola, perfino Papa Pio XII, oltre 50 anni fa, un papa certamente non progressista, aveva spiegato che sono leciti gli interventi contro il dolore anche quando questi interventi, per la loro importanza, avessero come conseguenza collaterale di indebolire l'organismo e quindi affrettare la morte, in sostanza. Quindi la mia richiesta è molto semplice. Il cardinal Martini ha chiesto una cosa e l'ha ottenuta. Infinite volte oggi negli ospedali italiani questa cosa viene richiesta e non viene ottenuta. Ne potrei dare testimonianza diretta e potrei raccontare una quantità di casi di persone, amici che conosco, ma qualsiasi italiano sa che spesso questa richiesta viene avanzata e non viene accolta. Ma non crede che in realtà il cardinale Martini ha trovato un medico che ha capito che andare oltre sarebbe stato accanimento terapeutico e quindi ha agito come dovrebbe agire qualsiasi medico, cioè voglio dire c'è bisogno di una legge per stabilire ciò che in teoria dovrebbe essere la base della medicina, cioè si cura finché si riesce e poi quando si capisce che non si può più fare nulla si evita di accanirsi appunto terapeuticamente. Ci sono due punti. Uno, che purtroppo, come lei dice, dovrebbe essere ovvio, ma non è così. Due, che la cosa essenziale è che il cardinal Martini ha deciso lui quando dire basta. E il medico, la dottoressa dagli occhi chiari e limpidi, come racconta, ha ottemperato alla volontà del paziente. Questo è il punto dirimente, cioè che la richiesta è avvenuta dal paziente. Il paziente, diciamo, ha avuto diritto di scegliere quando dire basta. Ora, quello che ha avuto, che ha ottenuto il cardinal Martini, credo che sia diritto di ciascuno di noi, perché tutti dovremo morire, tutti potrà capitarci, coi progressi della medicina, di morire molto avanti negli anni, con la paura di cui parla il cardinal Martini, la paura di morire soffocato, non la paura della morte, la paura del momento, del modo in cui si deve morire, quindi di voler a un certo punto dire basta, da questo momento in poi io non voglio essere più cosciente, allora, sedato, e la morte riguarda il mio organismo. No, è un punto interessante. Ma io ho diritto a non sentire più nulla. È un punto molto interessante sul quale vorrei intanto una prima controreplica del professor Agostino, D'Agostino. Dicendo questo, lei D'Agostino oggi su Avvenire, e ci spieghi anche perché ha scritto questo, scrive: leggere i tanti interventi del cardinal Martini sulle questioni più cruciali della bioetica come se essi avessero un carattere teologico e dottrinale, interpretandoli come auspici di nuove biopolitiche legislative, è assolutamente inaccettabile. Perché è inaccettabile questo tipo di lettura che immagino lei dice ha riscontrato in questi giorni dopo la scomparsa del cardinale? Perché si tratta di un'indebita forzatura della realtà, delle cose e degli avvenimenti. L'abbiamo sentito anche pochi istanti fa nelle pur garbatissime parole di Flores d'Arcais. Chi l'ha detto che il cardinale abbia deciso di ottenere la sedazione? La nipote. E chi ci dice che la nipote ha capito la differenza che c'è tra chiedere una sedazione in un rapporto dialogico col medico, una richiesta alla quale il medico potrebbe dire di no per ottime ragioni scientifiche e morali, e invece una richiesta che diventa decisione imperativa e vincolante? Quanti sono i pazienti che vanno dai medici e chiedono magari in modo concitato antibiotici, interventi invasivi, sproporzionati e scientificamente assurdi? Qui il medico ha il dovere di dire no, rispetto la tua richiesta, ma non è per il tuo bene, quindi non vengo incontro alla tua richiesta. Quindi l'ultima parola aspetta. In altri casi il paziente può chiedere qualcosa che comunque il medico ritiene sensato scientificamente e moralmente, e il medico si prodigherà per accogliere la richiesta. L'errore sta nel pensare che il cardinal Martini abbia deciso in modo imperativo e vincolante cosa avrebbe dovuto fare il medico. Io credo che è impossibile che qualunque medico dotato di una morale ippocratica, non cattolica, cioè di un'etica laica, possa dire: poiché il paziente mi ha chiesto questo, io adempirò ciecamente e scrupolosamente alle sue richieste. Non lo si fa per gli antibiotici, lo dobbiamo fare per una sedazione terminale. Ma allora mi scusi, la richiesta, lei come adesso, nessuno sa come sono andate le cose, noi ci dobbiamo fidare del racconto che ha fatto, un racconto molto toccante e molto sentito, al quale io voglio credere, nel senso delle, è ambiguo quel racconto, ambiguo, però, perché dal racconto della nipote non si capì, cioè a me va benissimo a sapere che il cardinale abbia richiesto, ma una cosa è chiedere e una cosa è pretendere come un diritto inalienabile al quale bisogna rendere, ma certo, un cieco omaggio. È chiaro che ci, no, ma è chiaro che ci sarà, si sarà instaurato un rapporto medico-paziente per il quale è chiaro che l'ultima parola spetta al medico, non è che il medico esegue come un automa ciò che dice il paziente. È quello che lei ha detto prima, ma allora c'è un normale rapporto dialogico tra medico e paziente, il medico ha il dovere di ascoltare tutte le richieste del paziente, ma non ha il dovere di esaudirle tutte. L'equivoco con Flores ed Arcais, mi pare di capire, la proposta di Flores è di dire: le richieste dei pazienti vanno sempre ubbidite. Questo è possibile e non è etico. Allora partiamo da qui, però tra tre minuti devo fermarmi un attimo per la pubblicità. È interessante come è iniziato questo dibattito. Il professor Flores ed Arcais chiede una legge vera e propria, mentre professor D'Agostino dice c'è tutto già nel rapporto stretto che ci deve essere, che è necessario, di intimità tra il medico e il paziente, ma non è che il medico possa essere un automa per cui ciò che il paziente chiede deve essere eseguito automaticamente dal medico. È sempre il medico che nella sua coscienza poi deve valutare l'ultima parola. Serve una legge secondo voi da questo punto di vista? Il vostro contributo, se volete, anche 800240024 tra tre minuti. 24 mattino. Eccoci qua, riflessioni sul fine vita, così abbiamo titolato la puntata di oggi, prendendo spunto dalla morte del cardinal Martini e dalla proposta che il professor Paolo Flores d'Arcais, che è nostro ospite, ha fatto ieri sul Fatto Quotidiano, a dire cioè ci vorrebbe una sorta di legge Martini, la possibilità per tutti i pazienti, per tutte le persone di poter scegliere il momento, ovviamente in dialogo con il proprio medico, di quando arrivare alla sedazione definitiva prima di morire. Con noi c'è anche il professor Francesco D'Agostino. Ecco, Flores d'Arcais, D'Agostino le fa una critica molto precisa, dire intanto di volere in qualche modo strumentalizzare anche gli eventi e la morte del cardinal Martini per portare avanti delle battaglie, leggendo quegli eventi in maniera distorta. Dice non c'è bisogno di alcuna legge, non ha scelto nulla, in realtà l'ultima parola aspetta sempre al medico. Senta, io non distorgo proprio nulla. Rileggiamo le parole con cui viene raccontata la morte di Martini, a meno di non dire che la nipote è un imbrogliona, ma a me sembra che abbia raccontato, c'ha proprio il sapore della verità questo racconto. Si rivolge così a suo zio: avevi paura soprattutto di perdere il controllo del tuo corpo, di morire soffocato. Poi, con la consapevolezza condivisa che il momento si avvicinava, il momento in cui rischiavi la morte per soffocamento, quando non ce l'hai fatta più, hai chiesto di essere addormentato. Hai chiesto. E però quel chiesto, appunto. No, è molto chiaro. Hai chiesto, così una dottoressa con due occhi chiari e limpidi, un'esperta di cure che accompagnano alla morte, ti ha sedato. Cioè, ha chiesto ed è stato esaudito. È molto semplice. Io propongo semplicemente che quello che ha potuto avere il cardinal Martini lo possa avere ogni cittadino italiano. Il punto però di chiedere è questo. Io le faccio le opposizioni che le fa il professor D'Agostino. Ha chiesto e c'è un medico che ha risposto di sì, ma quel medico poteva anche dire di no. Questo mi pare di che dice il professor D'Agostino. Io sto semplicemente Io alle volte non riesco a capire il modo di ragionare. Io sto semplicemente dicendo: il Cardinal Martini ha ottenuto una cosa. Questa cosa deve essere un privilegio o deve essere un diritto? Questa è una bella domanda. Professor D'Agostino, risponda a questo, D'Agostino. Deve essere un privilegio del Cardinal Martini o di poche persone, o deve essere un diritto sancito per tutti questo? D'Agostino. Ma e qualunque malato può rivolgere qualunque domanda al medico in ordine a qualunque pratica sanitaria. Il problema è vedere se questa richiesta del Cardinal Martini era una mera richiesta di sedazione nella fase terminale della vita o era una richiesta di essere ucciso. In altre battute... Ma che c'entra? No, lo spiego subito cosa c'entra. Il Cardinal Martini è morto per il Parkinson che lo affliggeva da anni o è morto per le sostanze chimiche che gli hanno iniettato nelle vene? Se è morto per le sostanze chimiche è stata eutanasia. Se invece la sedazione lo ha addormentato, ma non è stata la causa della morte, perché era una semplice palliazione, come è doveroso fornire a tutti, non solo ai cardinali, ma a tutti i malati, la vicenda non crea nessun problema bioetico e non c'è alcun bisogno di legge che la vada a formalizzare. Ma secondo lei, professore, bisognerebbe addirittura andare a indagare se questo se sia ma stato... Perché il Cardinal Martini fosse malato di Parkinson, lo sappiamo da anni e sappiamo benissimo l'evoluzione della malattia e sappiamo con ogni probabilità che era arrivato al momento terminale. Ma tutti i malati terminali, se soffrono dolori, hanno diritto ad essere trattati con terapie compassionevoli, tra cui le sedazioni. L'importante allora, è l'intenzione del medico. Quando il medico va a sedare il malato, che cosa ha in mente? Ha in mente di ucciderlo o di sottrarlo ai dolori dell'agonia? Il problema mi pare di capire che Florence Darkais dice che questo non succede però per ma il cittadino. Ma certo che non succede. Le potrei raccontare un caso che ho potuto vivere io di una persona che della madre di una mia conoscente che ha passato ore terrificanti, proprio quelle che il Cardinal Martini giustamente non ha voluto passare, perché è ovvio che si muore per la malattia, un malato terminale muore per la sua malattia, ma qui fatto si tratta detto, di si dire, può morire per la sedazione quando la malattia consentirebbe certo, ancora voi, mesi e anni di vita. Voi torturatori non volete far parlare le persone però. Dica D'Arcais, il professor D'Agostino le ha replicato un attimo. Qui si chiede, allora se fosse così che davvero tutti possono ottenere questo, a me non sarebbe neanche venuto in mente di scrivere questo articolo, no? Ma sappiamo benissimo, credo che migliaia di italiani potrebbero testimoniare che in questi giorni non è così. Lei però, professore... Mi scusi, sulla questione se la sedazione poi abbrevia il tempo di sofferenza che rimane oppure no, cerchiamo di non giocare con le parole. Lo stesso Pio XII, ricordo, più di 50 anni fa, diceva è lecito anche quell'antidolorifico e la sedazione profonda è ovviamente la forma più radicale di antidolorifico, anche se una delle conseguenze collaterali è di indebolire ulteriormente l'organismo e affrettare la morte. Ora il Cardinal Martini ha passato in stato di sedazione molte ore, come racconta la nipote. Senza quella sedazione le ore sarebbero state di più, ma possibile che ci poniamo questi problemi che a me sembra, ma no, non lo so. Non so, professor D'Agostino, il problema è, ho diritto a non a essere sedato oppure no? Se ho questo diritto e il professor D'Agostino dice che questo diritto ce l'hanno tutti, allora mettiamolo precisamente in una legge. Se non si vuole dare questo diritto, allora si gioca sulle parole, si vuole continuare a imporre a una quantità di malati terminali di vivere in stato cosciente una sofferenza fisica e psichica che non vogliono più... Vediamo, dal punto di vista del professor D'Agostino, se quella sedazione aumenta e accelera appunto il processo che porta alla morte, possiamo considerarlo per ciò stesso eutanasia secondo lei? È lecita, ma l'ha detto Flores citando Pio XII, quando il processo del morire è avviato in modo irreversibile, le sedazioni palliative... compassionevoli sono non solo lecite ma doverose. Flores dice che non vengono applicate mai, a me non risulta mai, no, non l'ha detto mai, ha detto forse comunque, non a tutti, diciamo, non c'è un diritto garantito a tutti i cittadini, è un problema anche forse sanitario esiste a tutti i livelli, però io non prenderei però coato le testimonianze personali di Flores, alle quali potrei opporre le mie, quindi saremmo 0-0 o 1-1, non è questo il problema. Il problema è che se il medico si trova di fronte ad un malato che ha ancora speranze di vita per un tempo significativo, cioè che non è in agonia e in punto di morte, e il malato gli chiede una sedazione terminale che potrebbe ucciderlo, la vicenda è quella di una richiesta di un atto di eutanasia. Il medico in questo caso deve spiegare al malato di non cadere in depressione, di non perdere la speranza, che gli darà delle cure palliative, ma possibilità reali di vita autentica. La differenza è tutta qui. Professor D'Agostino, questo però cozza, immagino, per il professor Florio D'Arcais con il tema anche della libertà, che è anche di decisione, insomma, quando uno sa che il proprio destino è totalmente segnato. Lei su questo però, D'Agostino, il tema della speranza è un tema magari alla quale uno vuole credere e un altro può non voler credere. Allora, pongo una domanda brutale e rosa. La ponga. Il malato ottiene dal medico la notizia che è colpito da un male incurabile che lo porterà a morte entro 1-2 anni. Se il malato chiede la sedazione terminale immediatamente, in maniera libera e consapevole, gliela dobbiamo dare o no? Ma questo forse no, però se io le faccio la controdomanda brutale: se invece arriva all'agonia finale e gli si dice guarda che puoi andare avanti ancora un mese perché puoi avere ancora vita, oppure uno dice no guarda io ho agonizzato abbastanza, il mio destino è questo, quest'ultimo mese me lo volete risparmiare oppure no? Questo che cos'è, professor D'Agostino? La risposta dipende dalla qualità della sedazione. Se la finalità della sedazione è togliere le sofferenze, è sempre lecita e doverosa, ma se la finalità della sedazione è uccidere, chiamiamo le cose con il loro nome, questa è eutanasia. Fatemi sentire, perché poi vorrei tornare al professor Florio D'Arcais, che concludeva ieri la sua proposta con una anche dura critica al mondo politico e anche cattolico italiano, però sentiamo Marisa, ci ha chiamato all'800240024. Marisa da Savona, buongiorno. Buongiorno, grazie. Io sono un'anziana infermiera con una lunghissima esperienza tra la vita e la morte delle persone. Troppe volte ho visto morire persone fra atroci dolori alle quali era negata la sedazione. Ricordo che ci sono delle linee guide dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che in Italia ancora non vengono rispettate, o perlomeno non vengono rispettate ovunque. Forse vengono maggiormente rispettate negli hospice, ma altrove troppo spesso c'è ancora del dolore. Quindi inutile. Lei sarebbe favorevole a una legge come propone Flores D'Arcais? Non è che però se si stabilisce questo in una legge poi ci sono automaticamente tutti gli strumenti per applicarla alla legge. Lei però ci sta testimoniando che effettivamente è così, come ci dice il professor Flores, non vengono attuate queste sedazioni. Certo, e poi volevo dire una cosa, bisogna tenere conto che la soglia del dolore è diversa da persona a persona, quindi ci deve essere una stretta conoscenza della persona, della sua percezione della vita, della sua percezione del dolore, cosa che spesso non viene fatta. Grazie Marisa. Allora, andiamo a sentire le informazioni sul traffico, ma poi vorrei ripartire da qui, ve lo anticipo già, la conclusione ieri dell'articolo pubblicato dal Fatto Quotidiano di Paolo Flores D'Arcais, che propone questa idea di una legge Martini, ma chiude l'articolo lei, professore, in modo molto polemico, a dire: sono più certo ancora che la Chiesa gerarchica, i politici che ne sono succubi quasi tutti anche a sinistra, e gli atei devoti e i falsi liberali che imperversano nei media, il cui nome è legione, troveranno mille cavilli per dire no a questa proposta di legge. Da questo molto jacuzzi polemico ripartiamo tra un attimo. Allora, Flores D'Arcais, perché lei è così scettico, anzi è così netto nel dire che in questo paese con le persone, le categorie di persone che prima ho citato, non ci sarà mai una proposta di legge che possa andare avanti come lei la propone? Guardi, io ho fatto una previsione con la speranza di essere smentito. come lei ha sentito in questo dibattito, il professor D'Agostino ha appunto tirato fuori mille cavilli per dire no. Abbiamo sentito, e il professor D'Agostino è un esponente esattamente di quel mondo di cui parlavo, abbiamo sentito una signora che lavora, non so se è un'infermiera o sì, un medico. Sì, infermiera. È un'infermiera che lavora negli ospedali con i malati terminali, che ha confermato che in realtà una quantità di malati chiedono in fase terminale una sedazione e questa gli viene rifiutata. Detto altrimenti, questi malati condannati a morte, essendo innocenti, non hanno commesso alcun crimine, sono costretti a vivere ore, giorni, non sappiamo quanto, di qualche cosa che vivono come una tortura, perché è una tortura insopportabile. Però la risposta è una legge. La sedazione. No, certo, ma la risposta è una legge, perché come lei mi può insegnare, la legge può essere un contenuto vuoto. Uno fa la legge, ma poi è come quando hanno fatto la legge perché hanno chiuso la legge Basaglia. Basta farle bene le leggi. No, certo, ma quando hanno fatto la legge Basaglia, poi non l'hanno applicata Ho capito. No? Non l'hanno implementata. Uno può fare una legge che tutti hanno diritto a questo, ma poi bisogna... Basta mettere delle pene per gli ospedali che non realizzano concretamente le possibilità per il paziente di essere... Guardi, se si vuole fare una legge fatta bene è semplicissima e in una seconda... Bastano due articoli, in uno si può addirittura utilizzare le parole di quel papa reazionario che fu Pio XII, si figuri un po', è che non la si vuole fare una legge così, perché non si vuole che diventi un diritto del paziente dire da questo momento in poi io non chiedo di l'eutanasia, chiedo però di essere in stato di incoscienza, durerà delle ore, dei giorni, delle settimane, per me finisce qui perché la mia sofferenza fisica o psichica è insopportabile, l'angoscia di cui parlava il Cardinal Martini e l'infermiera che ha parlato prima ci ha ricordato che la sofferenza è un dato soggettivo, non può essere il medico a dire no ma lei crede di soffrire ma in realtà la sua vita è ancora piena di valore, di speranza eccetera, la sofferenza è soggettiva, se per una persona quella sofferenza è ormai definitivamente insopportabile, è assurdo che qualcuno possa dire no, per te non è così, per il tuo bene ti condanno a continuare a soffrire. Questo è un punto molto interessante, professor D'Agostino, c'è un cambio di prospettiva, perché lei all'inizio metteva il medico al centro come decisore finale, sempre e comunque, mentre Flores D'Arcais dice ma come, ma chi può andare a indagare la soggettività della mia sofferenza per la quale il medico mi dice ma no, c'è speranza, c'è ancora prospettiva di vita, anche di questo tipo di vita. E allora chi deve decidere è il punto cruciale, se il paziente o il medico. Flores D'Arcais dice ma perché deve decidere un medico per me, se il mio grado di sofferenza è questo, io l'ho raggiunto e non voglio soffrire di più. D'Agostino. D'Agostino. Niente. Cioè, ci sente ancora, professore? Professore, no. Adesso lo recuperiamo. Allora, sentiamo un ascoltatore, Rocco da Ragusa. Buongiorno, Rocco. Buongiorno. Dica. Senta, io volevo aggiungere un elemento di valutazione un po' al dibattito che credo sia estremamente delicato. Il professor D'Arcais diceva che a lui constano tanti episodi di un cattivo trattamento del dolore, soprattutto il dolore terminale. Sì. Allora, volevo dire che probabilmente prima che fare una legge, per la quale io non sono perfettamente d'accordo, direi che bisognerebbe un po' diffondere ancora ulteriormente più la cultura della terapia fatta adeguatamente, perché noi siamo una nazione in cui fino a un paio di anni fa la prescrizione degli oppiacei, dei morfinici, cioè dei farmaci potenti contro il dolore, era veramente una cosa problematica. Ora da qualche anno la legge, e quella è la legge giusta, ha consentito un utilizzo un po' più diffuso e un po' più facile, diciamo, di questi farmaci. È vero pure che però probabilmente bisogna approfondire ancora di più la cultura della terapia del dolore in modo da non sentire i discorsi che ha fatto il professore D'Arcaise, che io non metto in dubbio, cioè di persone che non vengono curate bene dal punto di vista della terapia del dolore. Ora, nella mia esperienza, quello che ho potuto vedere in 30 anni di medicina è che tutti questi casi incredibili di persone che hanno sofferto il dolore perché maltrattati nella loro sofferenza non ci sono. Vabbè, però è vero pure, mi perdoni, sì. Finisco. Mi consta pure che ancora la cultura della terapia del dolore, quindi l'utilizzo anche dei farmaci in maniera adeguata, non esiste molto in Italia, e questo sarebbe invece un primo elemento proprio per su cui lavorare, no, su cui migliorare. Grazie Rocco da Ragusa. Allora, professor D'Agostino, l'abbiamo recuperato. Al di là dei casi personali, il cambio di prospettiva, ripeto la domanda che ha fatto Flores D'Arcais, è centrale nella questione, cioè se debba decidere il medico l'indagare su fino a che punto si può spingere la sofferenza di un paziente, o se invece, come dice D'Arcais, è il paziente stesso che dice: ma io sono arrivato qui, non voglio andare oltre a questo. Guardi, è verissimo che l'esperienza del dolore è soggettiva, ma è anche vero che non è e non può essere l'unico criterio per determinare l'azione del medico. Se una donna, e capitano questi casi, ha il terrore delle doglie e chiede il parto cesareo, di partorire in stato di sedazione, e il medico ritiene che quel parto cesareo la danneggi inutilmente, dovrà cercare di attivare forme di lotta contro il dolore che non corrispondono alla richiesta materiale della paziente, ma che corrispondono al dovere di atteggiamenti compassionevoli. Quindi vorrei aggiungere a Flores, sì. Lui auspica questa legge e si dichiara pessimista sulla sua approvazione. Ma Flores, l'ha letta la legge Sacconi sul fine vita, che è stata approvata alla Camera e che è in attesa di passare al Senato? Guardiamo le cose senza pregiudizi e con onestà intellettuale. Tutte le richieste di Flores ci sono nella legge Sacconi, nel disegno di legge Sacconi, a meno che non vogliamo pretendere l'eutanasia sotto altre parole. Ma perché lei insiste su questa idea che tutto ciò che è sconfina e porta a portare l'individuo a fare delle richieste porta all'eutanasia automaticamente? Cioè infatti non è affatto vero. Che no, però l'ha utilizzata molto spesso, diciamo, come terminologia. Perché anche stiamo parlando di malattie terminali e di situazioni borderline. Ogni malato di tumore cade in depressione, è una banalità quello che dico, e vorrebbe farla finita subito, quando a volte ci sono possibilità di terapia e di sopravvivenze significative. Tutto si gioca sul fatto che né il malato né il medico hanno diritti in senso forte. Tutte e due devono collaborare per il bene del malato e per la lotta contro la malattia. Abbandoniamo quest'idea di rivendicazioni così radicali e sovrane. Non corrispondono all'esperienza della medicina, che è sempre relazionale e in cui l'uno deve ascoltare l'altro e l'altro deve fidarsi del medico. Questo è il cuore del problema. Allora, non ci sono dogmatismi, c'è il buon senso di chi conosce la pratica clinica. Allora, io ho un minuto, Flores, poi se no non vorrei tagliarla, tra l'altro, su un argomento così importante, così profondo. Ecco, lei ha lanciato questa idea, staremo a vedere, anche se ha detto con pessimismo, in questo paese, visto ciò, le forze che remano contro, sarà difficile ottenere questo risultato. Intanto facciamo così, noi fermiamoci qua. Io vi ringrazio molto per aver animato questo dibattito, che credo sia un dibattito molto molto interessante, poi riguarda tutti, non solo per la banalità del fatto che tutti dobbiamo prima o poi morire, ma perché sono dibattiti che riguardano temi etici che man mano ritornano. Ultimamente anche la vicenda, ripeto, anche se diversa, di Ruana Englaro, il film di Marco Bellocchio, oggi sui giornali ancora vedrete dibattiti che sono risgorgati da queste esperienze. Vi ringrazio davvero. Paolo Flores D'Arcais, filosofo, direttore di Micromega, per essere stato con noi. Propone una legge Martini, definita così tra virgolette dopo l'esperienza della morte di Cardinal Martini. Ringrazio il professor Francesco D'Agostino. Vi ricordo che potete anche riascoltare tutto sia in podcast sul sito radio24.it. Potete seguirci su Twitter, Alino Milan sono io, mi hanno detto: ah, non si diventa amici su Twitter, si diventa followers, e diventate seguaci, cioè la setta di Alino Milan, va bene, facciamo anche così. 24 mattino invece l'account della trasmissione. Saluto Alessandro Longoni in redazione, saluto Elisabetta Fusconi in redazione, Miriam Lucchetti in redazione, P Peter Bescapelli, vabbè, l'alpino. Che dire? A lunedì alle 6:35. World Urban Forum.